Oxygen, e nel nostro viaggio fra le ultime novità della musica elettronica globale siamo tornati sul nuovo lavoro di uno dei progetti più importanti della scena elettronica europea, ricordiamo già attivo nei primissimi anni 90, The Orb, nuovo lavoro che vede anche la presenza di vari ospiti come Steve Village, Miquette Girardi, dei Gong e dei System 7, nonché di Youth, ex esponente dei Killing Joke e collaboratore degli Orb nei loro primi lavori. Infatti le atmosfere di questi brani ricordano molto i brani Ambient House che gli Orb avevano realizzato in album come UFORB, che in qualche modo sono rimasti nella storia della musica elettronica. Ma andiamo avanti, sempre in Gran Bretagna, con un altro progetto che vi propongo abbastanza abitualmente. Si chiama Warrington Rancor New Town Development Plan. Ha un sound molto vicino alle atmosfere del crowd rock anni 70. Appendix One, il nuovo extended play. Thank you. to oxygen for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. E questo era Warrington Rancor, New Town Development Plan, qui a Oxygen. E andiamo avanti con una novità che in realtà è una ristampa di un lavoro uscito nel 1994, firmato da Tom Jenkinson, uno degli artisti più poliedrici e più famosi di tutta la scena elettronica, ovvero Squarepusher. Squarepusher, che prima di realizzare il suo album d'esordio su Reflex Records, l'etichetta di Aphex Twin, aveva realizzato una serie di lavori, tra cui questo che si chiama Stereotype, che la Warp ha quest'anno, da pochi giorni, messo in circolazione nuovamente, remasterizzato e ristampato. Stereotype, Squarepusher. Thank you. for your ears, for your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. You listen to Oxygen. For your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Oxygen. Thank you. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Quella che state ascoltando è sempre Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Samarcanda Digital Network, ideata e condotta dal sottoscritto Amptech, e abbiamo ascoltato un estratto dal vinile storico Stereotype di Squarepusher, recentemente oggetto di una ristampa da parte di Warp Records, che sta recuperando materiali che provengono da altri cataloghi, anche dalla Reflex, e li sta riproponendo sotto il proprio marchio con una remasterizzata e un recupero anche della qualità sonora. Andiamo avanti con una novità invece nuova di zecca, Candy Gray, che è un artista che abbiamo avuto occasione di conoscere anche su Raster Noton, che pubblica una colonna sonora che si chiama Sirat. We'll be right back.

E questa è sempre Oxygen, in voce con voi Amptech, questo era Candying Ray, colonna sonora del film Sirat, atmosfere come sempre molto cupe, scure da parte di questo produttore, ma andiamo avanti con PDQB che ha pubblicato vario materiale nel corso dell'anno e ci ascoltiamo un paio di estratti dal lavoro che si chiama Wetware Unveiled, pubblicato dalla Synaptic Cliffs qualche mese fa, sempre nel 2025, ma se non sbaglio attorno a marzo. PDQB. This is Oxygen. Thank you.

questa è sempre Oxygen. Vi ho fatto ascoltare due brani dal lavoro di PDQB, uno dei tanti veramente che ha disseminato nel corso del 2025. Poi siamo passati a una nuova release della Mord Records firmata da SHXCXCHCXSH e si chiama World EP, il Extended Play, ma già sotto la mia voce il nuovo invece City Lights di Phaser pubblicato da Kazerner Records. The volume.